spetterebbe a me in questo momento tirare delle conclusioni, ma io me ne riguardo bene a tirare anche una sola conclusione di questo convegno di studio così ricco e così articolato come si è presentato. Però vorrei fare, se mi permettete, due osservazioni. La prima riguarda la finalità che intendevamo raggiungere con questo convegno di studio, che ci è stato dato appunto la possibilità di portare in termine, e qui i ringraziamenti non sarebbero dei convenevoli, sarebbero doverosi. Comunque la persona, il direttore dell'Istituto di Scienze Religiose, ci ha accompagnato durante tutta la giornata e mezza, e di questo noi le siamo veramente riconoscenti, e così tante altre persone che ieri sono venute per salutarci, eventualmente noi andando via lasciamo qui i saluti. Ma volevo mettere appunto in evidenza due osservazioni. La prima sulla finalità, dicevo, del convegno, che era quello, se vi ricordate, di mettere un momento in rilievo qual era la caratteristica specifica e propria dell'etica teologica in un contesto secolare e pluralista. Dicevo, questo era una avvertenza più che doverosa, perché il discorso morale cattolico ha perso di fatto la sua egemonia. Prima era monopolizzato soltanto dalla Chiesa cattolica il discorso morale. Oggi abbiamo visto, specialmente nella bioetica, c'è una consistenza, una presenza molto consistente anche qualitativamente tale della bioetica laica. Ecco, direi che questa finalità è stata raggiunta, ma in una modalità un po' diversa da come la si era così preconizzata anche. Non c'è stata una puntualizzazione, ecco, di quello che doveva essere l'etica teologica, veramente teologica e non meramente filosofica, ma piuttosto delle richieste e delle esigenze rivolte all'etica teologica come tale. E cioè questa: se è vero che il Vangelo deve essere annunciato nella società concreta in cui si vive, questa società è secolare e pluralista, dunque è qui che va annunciato il messaggio morale del Vangelo, non con nostalgie verso una società cosiddetta del passato. Quindi allora, ecco la richiesta che è stata avanzata, non esplicitamente, ma direi come contenuto di tutte le relazioni che abbiamo ascoltate, relazioni davvero rigorose, impegnate. Questo di nuovo sono riconoscente ai relatori, i quali non sono venuti qui a chiacchierare, ma si vedeva che erano venuti qui veramente con una preparazione molto forte sul tema che era stato loro affidato. Ecco, se il contesto è questo, è evidente che l'etica teologica non può non riferirsi alla parola di Dio, non può non essere teologica, ma deve dimostrare che, pur partendo da un orizzonte di fede, sa farsi razionale, capace di dialogare con l'uomo secolare, il quale appunto intende muoversi secondo un'etica basata sulla ragione. Cioè dimostrare che le proposte ispirate alla fede sono umane e umanizzanti e quindi universalizzabili. Cioè, in breve, rendere ragione del fatto che la morale cristiana non è una supermorale, ma semplicemente una morale umana. Una morale il cui risultato è quello di rendere pienamente umani. Ecco, qui avevo visto, pensavo fosse presente Malherbe, appunto, una citazione che prendevo da lui, quando parla dello stile o delle condizioni perché il dialogo sia costruttivo fra il religioso, il politico e il filosofo. Diceva che tutti e tre hanno qualcosa da pagare, perché appunto la conciliazione possa emergere. E lui diceva molto, espressività molto, molto bella: per il religioso il prezzo da pagare è riconoscere che tutto ciò che egli ritiene prescritto in nome di Dio deve potere dimostrarsi prescrivibile anche in nome dell'uomo. Non può non enunciare quanto è prescritto in nome di Dio, il suo discorso non può non essere religioso. Però deve poter dimostrare che quanto è prescrivibile in nome di Dio è prescrivibile anche in nome dell'uomo. Praticamente è un po' uguale parlare in nome di Dio o in nome dell'uomo, veramente dell'uomo, i risultati dovrebbero un momento coincidere. La seconda osservazione potrebbe riferirsi a tre problemi che rimangono aperti, non dal nostro convegno, ma penso anche aperti per questo. separa dall'altro millennio, come si usa dire, che rimarranno aperti comunque per un lasso di tempo molto, molto lungo. Il primo problema riguarda il rapporto tra naturale e artificiale. La problematica del rapporto naturale-artificiale si pone e si porrà in misura crescente, perché le società dell'Occidente andranno sempre più verso un futuro condizionato dalla razionalità scientifica e tecnica e quindi dalle possibilità oggi accresciute di intervento sulla natura cosmica e sulla stessa natura umana. Il rapporto naturale-artificiale si pone con acutezza nell'osservare quanto il dominio dell'uomo, proprio attraverso la scienza e la tecnica, sia risultato ampiamente distruttivo. Avremo sempre bisogno della scienza e della tecnica proprio per perfezionare la natura, realtà perfettibile. E qui il discorso è andato diverse volte, tipico l'atteggiamento alla relazione di Compagnoni, e le altre relazioni invece molto più flessibili in questo rapporto naturale-artificiale. Comunque chiudo con una domanda che ha in sé anche un tipo di risposta. Emerge con chiarezza a livello di, questo l'ho già detto nella relazione introduttiva, emerge con chiarezza, almeno dal punto di vista della morale ufficiale, riferendoci a un documento della bioetica, poi l'unico, il primo, Donum Vitae, che la morale cattolica ufficiale, dico, fa chiaramente distinzioni, cioè emerge una distinzione fra la scienza e la tecnica, nessun atteggiamento antiscientifico, antitecnologico, d'accordo? Ma emerge con chiarezza una scienza e la tecnica, la distinzione cioè fra scienze e tecniche che aiutano la natura non è un dato perfetto, è un dato perfettibile, non fa sempre le cose per bene, le cose anche in senso malvagio, e la scienza e la tecnica che sostituiscono, sono in alternativa alla natura. Io non vorrei adesso codificare quanto era l'impianto del discorso di Bondolfi, di Compagnoni. Ecco, comunque questo è un punto, almeno nella fecondazione artificiale e nella manipolazione genetica, questo ormai è apparso chiaramente. Sì, alla GIFT per dire, perché sono ancora una tecnica che può aiutare la natura, no alla fecondazione artificiale in vitro, cioè la fecondazione extracorporea, perché non è un perfezionamento della modalità naturale, ma è un'alternativa, cioè è veramente un cambiamento della modalità naturale. Ripeto, non perché il naturale debba essere codificato in quanto naturale, questo ci precluderebbe una qualsiasi possibilità di dialogo con la cultura laica, ma nel verificare volta per volta se il naturale è significativo per l'umano, cioè se nella modalità naturale oggettivamente sono salvaguardati, almeno attualmente, storicamente, dei valori che nella modalità artificiale sarebbero compromessi. Certo, si tratta di verificare volta per volta, ma credo che questo binomio naturale-artificiale non abbia trovato ancora una via di uscita in senso molto positivo e molto chiaro. Secondo tema aperto riguarda i principi che sono alla base della convivenza umana, cioè quali sono i valori di base che possono reggere una convivenza armonica di fronte a tante novità, quelle che ci sono e quelle che eventualmente potrebbero scaturire anche in un futuro più o meno vicino. E forse il principio della tolleranza, come qualcuno mette in evidenza, cioè ogni cittadino abbia in proposito le sue idee e scelte etiche e le possa anche esprimere. Non soltanto, ma ci sia anche un'accettazione delle messe in opera di queste pratiche, di questi interventi. Cioè, quindi non soltanto un poter esprimere le proprie opinioni, ma anche il poterle applicare. Una società, cioè, tollerante. Io voglio fare la fecondazione artificiale, deve essere una società tollerante quella che mette in opera delle iniziative per la realizzazione, e così via. Una donna può volere un figlio senza sposarsi, eccetera, deve poter esprimere liberamente questo e trovare una società cosiddetta e appunto tollerante a livello operativo, a livello di prassi. Questo è certamente un principio della convivenza sociale, quello della tolleranza. Si pensi all'intolleranza e alle ingiustizie, ai misfatti che ha recato appunto il principio della intolleranza. Tuttavia la tolleranza non può essere il principio della convivenza sociale, perché dopo tutto procede da una concezione individualista della persona e perché rinuncia in partenza alla ricerca e alla individuazione di valori comuni sui quali ottenere impegno e consenso. Consenso prima e impegno. La convivenza umana, per essere convivenza di persone, si regge sul principio base della solidarietà. È la solidarietà il principio base che regge una convivenza umana. Il principio della solidarietà ha avuto sempre radici nelle famiglie, nelle classi, nelle etnie, ora tende ad allargarsi in senso temporale, verso le generazioni future, in senso spaziale, verso gli abitanti dell'intero pianeta, e anche nel senso interspecifico, coinvolgendo per certi aspetti non solo i viventi, ma la materia bruta, il ciclo dell'acqua o dell'ossigeno, il fluire dei fiumi e lo stato del terreno come basi della vita. Il principio di solidarietà, a partire dall'avvertita e sperimentata interdipendenza, dice responsabilità verso se stessi e insieme corresponsabilità verso gli altri, tutti gli altri. Il principio della corresponsabilità esige che nessuno progredisca a danno di qualcun altro. In positivo cerca la propria realizzazione nella e con la realizzazione dell'altro. Tale principio, il principio della solidarietà, può rendere il cammino dell'umanità più lento, certamente più lento, può porre anche dei limiti e dei freni a certe realizzazioni tecnologiche, ma assicura un cammino di vita per tutti e non per qualcuno, nel sacrificio e nella morte di qualcun altro. La bioetica, etica della vita, è un'etica della solidarietà, un'etica della responsabilità verso la propria vita e di corresponsabilità verso la vita dell'altro, di ogni altro, presente e futuro, e di quanto esiste. Tutto quanto esiste è chiamato nel progetto di Dio al compimento. Un terzo e ultimo principio riguarda l'informazione e quindi come principio di democrazia. Quindi bando a qualsiasi forma di corporativismo, anche all'interno degli scienziati. Quindi di fronte alla domanda autoregolazione delle conoscenze scientifiche, delle possibilità, oppure controllo democratico delle ricerche scientifiche. Io credo che non ci possano essere dei dubbi, comunque il problema c'è. C'è chi sostiene il principio della autoregolazione della comunità scientifica nel promuovere e nel finalizzare le ricerche scientifiche. Non si fa fatica a vedere che nelle società attuali la ricerca scientifica e l'attrezzatura tecnologica è fortemente condizionata dal potere economico e dal potere militare, per cui il principio dell'autoregolazione equivale a una pia illusione. Il principio dell'autoregolazione della comunità scientifica deve essere subordinato alla comunità civile nel suo insieme, e per essa lo Stato quale titolare del bene comune. Ciò vuol dire che tutti i gruppi, tutte le persone, devono poter contribuire anche alla finalità delle ricerche scientifiche, e per questo è indispensabile l'informazione, il sapere cioè quello che si fa nei laboratori, un maggior collegamento con la società civile. Senza informazione non può esservi partecipazione. È questione appunto di vera democrazia oppure di democrazia apparente. Bene, di nuovo io ringrazio le persone intervenute e ci diamo appuntamento chissà quando. Grazie e ascolto.